sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro e là si nasconde il futuro. Passato, presente, futuro, non c'è niente di sicuro, perché col tempo i ricordi si offuscono e prendi coscienza del mondo. Più sali in alto e più senti di andare a fondo, e in fondo ti accorgi che non è poi tutto così tondo. Passati 18 capisci che sotto sotto era meglio prima, ai tempi di una prima elementare come Watson, quando pensavi don't stop come Mark Ronson. Ora invece ti calpestano, o sei tu lo stronzo in una vita col singhiozzo. Ora ci sei, ora non più gridi il tuo nome al mondo per tirarti su, ma non tornerà indietro ciò che un tempo fu. Ciò che è stato era il passato, è andato via col fato, via soffiato, via dal fato. Ma il passato non scordarlo né bene o nel male, perché se c'è una cosa che la storia insegna è che l'uomo è recidivo. Tornare sugli errori, sugli sbagli è un tratto distintivo, ciò che più lo rende un animale, ciò che è distintivo. Sperando che non cambi mai e non diventi un animale con il distintivo, io continuo il mio cammino ad ogni passo scrivo. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro. Dici bene Uba loco, questa vita non è un gioco, fatto di sogni e il futuro, e si nasconde oltre quel muro. E culo dialetto qua mozzicco, cale italiano mi sta stritto, e vi parlo tutta la vita mia prima calo di torrello a ria. Lasciamo al re tu cull'anni a Manduria e una scia, finalmente dopo tre femmine lu mascolo sta ria. Tutti contenti in trasta casa pillo nuovo arrivato, mi chiamo Cosmo come un arma calo cognome mettato. E quello che pu sai capasse io mi faccio grande, se la scuola la fatia me nu rimane a tutti i bandi. E la vita mi vuota le spalle, ma io saccio continuare. Ho sulla capa e chino d'orgoglio, sicco a cantare. E mo sta cosa è molo tra questi frati e terra. Mi metto a fare che meno rime su ste canzoni. Parlo di la vita mia e di cuduca già combinato. Perdonatemi fratelli se vi ho annunciato. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro. Nasce il mondo, sembra che sorrida, cresce in fondo, è solo una sfida. Non fermarti, va oltre quel muro, è là che si nasconde il futuro.